Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta quella gente, di tutta l'altra gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene e il mondo m'appartiene, e il mondo mio che è fatto solo di te. Come ti amo non posso spiegarti, non so cosa sento per te. Ma se tu mi guardi negli occhi un momento, lo puoi capire anche da te. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è. Cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene, se solo stiamo insieme, se solo ti ho vicino. Ecco che c'è.